Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Lucio Tasca d'Almerita, la Sicilia dei vini, di Alessandra Scaglioni. La storia d'impresa di oggi parla di terreni, di vino, di una famiglia nobile e di 3 milioni di bottiglie vendute in 68 paesi del mondo. Una storia che inizia col fascino di un romanzo. Siamo nel 1800, in Sicilia, nel feudo di Re Galeali. La nostra famiglia, Tasca d'Almerita, scende dalle montagne, dai Nebrodi, esattamente da Mistretta, che è un paesino a 1000 metri sul livello del mare che guarda le isole Eolie. È un paesino molto bello, devo dire. Allevavano animali, però fanno tanti soldi. E così c'è questo Lucio Tasca, che ricco e bello, scende dalle montagne, compra feudi in giro per la Sicilia e sposa una nobile. In che anni siamo? E siamo primi del 1800, primi anni del 1800. Nel 1830 comprano Re Galeali, questa nostra azienda base, diciamo così, che era un feudo di 1300 ettari di terreno, che però viene espropriato negli anni 50 con la riforma agraria. E lì nasce la storia dei nostri vini e della nostra famiglia. La storia dell'azienda è lunga, ma ci sono alcuni momenti che ne hanno segnato lo sviluppo in modo particolare. Devo dire, mio padre è stato il primo a imbottigliare nei primissimi anni 60. Ha avuto questa idea molto importante, interessante per la nostra azienda, tanto che c'è stato un grande sviluppo e da lì siamo partiti come azienda vitivinicola di una certa qualità. Dopodiché, diciamo che ha avuto subito un grande successo, il Re Galeali Bianco è stato per alcuni anni veramente il vino bianco italiano importante. Il passo successivo, quello diciamo che ha dato una spinta maggiore all'azienda, è stato l'impianto dei vitigni internazionali. Leggi Cabernet Sauvignon, Chardonnay, questa roba qui. E lì veramente si è capito che in Sicilia si poteva fare dei vini particolarmente buoni con vitigni internazionali. Oggi Tasca d'Almerita coltiva quasi 600 ettari di vigneto in 5 tenute dell'azienda. La storica tenuta di Re Galeali, la tenuta di Capofaro a Salina nelle isole Eolie, i vigneti di Mozia, la più recente acquisizione alle pendici dell'Etna e ancora la tenuta di proprietà dei Salier della Tour. Oggi l'azienda produce oltre 3 milioni di bottiglie, vendiamo in 68 paesi nel mondo, tiriamo naturalmente cercare di allargarci ancora perché oggi i mercati internazionali sono quelli che dove si vende, sono anche quelli che pagano, per cui l'Italia adesso è abbastanza triste la situazione, il mercato certamente in Italia non cresce, quindi ci rivolgiamo all'estero già da tanti anni. Ci siamo ritrovati, non so, io lavoro con i miei due figli maschi che lavorano in azienda e ci siamo ritrovati, non so, un giorno uno stava negli Stati Uniti, l'altro in Russia e l'altro in Cina, una cosa che non avrei mai pensato 15 o 20 anni fa, ecco, ci siamo trovati persi per il mondo e devo dire mi ha fatto molta impressione. Il 40% della produzione viene esportato. Germania e Stati Uniti sono i mercati esteri più importanti. La nostra azienda ha un grossissimo fatturato in Germania, dove organizziamo tantissimi anni fa una società con altre varie aziende, per cui vendiamo direttamente. Quindi Germania prima, Stati Uniti seconda, terza, Svizzera e Russia. È complicato, però è un bellissimo mercato. Poi i russi sono molto più naturalmente europeisti di quanto non siano gli altri paesi e adorano il vino italiano. Poi vediamo in altri paesi, come ho detto prima, in 68 paesi diversi. E devo dire che cresce, è cresciuto, e siamo lì con i francesi e comunque il vino italiano al mondo funziona, non c'è dubbio. 20 le etichette prodotte. Con la valorizzazione dei vitigni autoctoni siciliani e le continue sperimentazioni e innesti con 40 varietà di uve provenienti da tutto il mondo. La conquista dei mercati esteri ha presentato in realtà minori difficoltà della conquista del mercato italiano. Le scommesse sono sempre dure. Il vino siciliano nella storia fino agli anni 70 passava per un vino da taglio, punto. Quindi presentarsi nei mercati europei era molto difficile perché si sapeva questa cosa, i vini siciliani erano vini da taglio e spesso avevamo le porte in faccia e la gente non ci faceva neanche entrare. Gli Stati Uniti è stato invece molto più accogliente per noi perché non erano a conoscenza di questi fatti e quindi poi l'americano è molto più pragmatico, va per il prezzo qualità, lì è stato più semplice. Il punto, la zona più difficile è stata il nord Italia. La crisi che ha colpito anche questo settore non è ancora del tutto superata. Questo è il primo anno nella mia vita in cui non sono ottimista. Penso che il 2012 sarà pesante quanto il 2011, se non di più. Penso che i nostri politici devono darsi una mossa mentale e fare le cose come Dio comanda. Bisogna fare dei tagli, bisogna intervenire pesantemente, chirurgicamente, e bisogna lavorare di più. Però c'è una cosa fondamentale: il cervello parte alla ricerca di motivazioni, spinte più interessanti e più, se vogliamo, geniali. Cioè trovare tutti i giorni o trovare delle motivazioni, soprattutto qualche cosa che ti dia dei risultati. Insomma, il cervello si mette in moto quando è in difficoltà, non c'è dubbio. Più in difficoltà sei, se hai un cervello che funziona, più cerchi soluzioni ai problemi. E questa credo sia l'unica strada, e poi lavorare di più, non c'è niente da fare. Per un'azienda radicata in Sicilia ci sono aspetti positivi che attengono al lavoro quotidiano e difficoltà legate soprattutto alla logistica. Beh, certo, in Sicilia il rapporto umano è umano, non tra virgolette, ma umano sottolineato. Vedo che ancora c'è un grande calore nelle persone, nell'animo delle persone, cosa che si perde mano a mano che si va al nord. Siamo col cuore in mano, diciamo, in tutti gli ambienti in Sicilia. Per altri versi è più difficile lavorare, perché comunque paghiamo l'insularità. Questa è una cosa difficile da capire, ma neanche tanto. L'insularità significa per noi essere lontani dal mondo dove si vende il vino, dover prendere un aereo la mattina presto per cercare di raggiungere i posti che raggiungiamo, quindi con più fatica e più costi. E chiaramente, le faccio anche un esempio, noi compriamo le capsule nel nord Italia, le capsule delle nostre bottiglie, costano più le capsule delle nostre bottiglie in Sicilia piuttosto che le stesse capsule della stessa marca in California. Questo le fa capire quanto è difficile lavorare in Sicilia. Il lavoro e la produzione legata alla terra porta con sé il tema della sostenibilità. Devo dire che per fortuna Sicilia è una terra molto ricca e molto fertile, per cui la nostra azienda è un prototipo di quello che deve essere la sostenibilità proprio dell'agricoltura. Quindi il discorso no carbon, tutte quelle robine lì, ci stiamo attentissimi, abbiamo un progetto che stiamo già attuando insieme all'Università di Torino, l'Università di Milano, di Piacenza. Abbiamo appunto questo progettone fatto anche con altri nostri conterranei e un ulteriore progetto di sostenibilità fatto con aziende invece italiane. E credo che mi auguro che il Ministero ci sponsorizzi e ci aiuti in questa bellissima avventura che è la sostenibilità, e quindi guardare al futuro di quello che è l'agricoltura, quindi la sostenibilità dei terreni, la quantità di acqua che serve per i terreni e tutto quello che sono le produzioni, no CO2, no carbon, tutto quello che può essere negativo, annullarlo completamente. Noi già siamo, come si può dire, creditori di questa cosa qui. Il passaggio generazionale è in atto. Dei 4 figli, i 2 maschi sono già in azienda. Io ho già fatto il passaggio generazionale, nel senso che, pur essendo presidente della mia società, ho già organizzato i miei figli sia dal punto di vista successorio che dal punto di vista del lavoro in azienda. Il mio figlio piccolo, che poi intanto piccolo non è, è da 4 anni consigliere delegato di tutto il gruppo delle nostre aziende, perché non abbiamo solo Regagliali, ma abbiamo un'azienda Salina, una sull'Etna, una con la Fondazione Whitaker sull'isola di Mozia e una nella DOC di Monreale. Quindi abbiamo ormai 5 aziende oltre alla nostra. E ho già organizzato, appunto, a parte la successione, anche la successione dal punto di vista dell'organizzazione aziendale. E quindi il piccolo, che ha 40 anni, Alberto, è già dunque da 4 anni consigliere delegato del gruppo. Il grande è vicepresidente, Giuseppe. Quindi insomma la baracca si è aggiustata e siamo riusciti a fare questo passaggio, che è stato complicato, se vuole anche doloroso, necessario però, è difficile, però una cosa che mi rende felice, perché sono riuscito a fare le cose per benino, anche se sono state lunghe. E come in tutte le storie, l'ultima parte è dedicata ai progetti e al futuro. Finché c'è gente valida in famiglia che sa mandare avanti la baracca, certamente sì. Purtroppo succede ogni tanto che nella famiglia non ci siano quei trasporti verso l'azienda. Comunque è un lavoro faticoso e bisogna essere predisposti sia dal punto di vista degli studi sia dal punto di vista dell'umano. Voglio occuparmi dell'azienda. Finché c'è gente della famiglia disposta a fare questo sacrificio, a fare questo sacrificio con gioia. Allora, bene, nel momento in cui questo non c'è, conviene vendere l'azienda o metterli in mano un manager, però secondo me conviene venderla. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.